letto, ma non sono riuscito a riposare, allora mi sono seduto qua, così vediamo un po' se c'è qualcuno a baracchino. E mi hai risposto tu. Invece, se non sbaglio, è stato io e l'altro. Giulia? Giuseppe, e appunto, no, ma non riuscivo a dormire, ma te ci prendo qualcosa a leggere, così mi coincide il sonno, invece niente, no, niente da fare. Vabbè, comunque, allora mi sono seduto e sono qui al baracchino con voi. Vai Giuseppe. Ehi, è meglio. Ma ti ha telefonato Gio Maria, ti stava cercando, ma gli ho detto prova a telefonargli, se lo senti a Giulio, non lo so, questo ieri sera è. Non mi ha telefonato, ma te sono Gio Maria, ci sei? Gio Maria, ci sei all'ascolto? Non c'è, vuol dire non c'è, sa, forse sta facendo riposino adesso. No, non mi ha telefonato Giuseppe, e vabbè, dai, ci sentiremo, suppongo, stasera. Oggi la giornata è pessima, dunque è che voglio riuscire, ma nemmeno per sogno. Stamattina c'era il diluvio universale, dunque tanto peggio. Però stamattina diciamo che ho staccato un po' tutto, perché qua se no con i lampi e con i tuni poteva bruciare qualche apparecchiatura, allora ho staccato tutto. E per quello non ho sentito nessuno, capito? Capito, capito giù. Ehi, ah, ehi, vabbè. Avete per caso. Vabbè, no, vabbè là. Ma che tu vuoi che, vabbè, già. E a Dorico quando ci vediamo verticale, dai. Ok, d'accordo. Va bene, Giuseppe. Avanti già. Mi sta dormendo. Gianni. Non sto dormendo. Sto dormendo. Perché non mi rispondi? Perché mi hai caduto il microfono. Quanto siamo? Io ho fatto una modifica qua in questo ancora, gli ho messo una quartiera nuova, gli ho messo con dei quarti eccetera, e un interruttore, cioè un interruttore supplementare. E l'ho portato da 23 canali, l'ho portato che valeva 37, tutti uno dietro l'altro, però a 40 non ci sono arrivato, vabbè, vuol dire sarà una questione di quarti, non uscirà sino a 40, pazienza. Comunque la modifica è riuscita. Gianni, ti ho fatto dormire, ti ho fatto addormentare? No, negativo. Cioè, sì, ho sentito che hai fatto la modifica. Hai messo i quarti dove? Non ho capito bene. Una quartiera supplementare ho messo con dei quarti, mi sembra 5, 6, 7, qualcosa così, e mi dà sino al canale 37, mi dà. Naturalmente commutando, con un interruttore commutando e mettendo su un determinato canale per poter avere gli altri canali. Però a 40 non ci è arrivato, attenta. Sperimenterò ancora, non lo so, cambiamo magari quarti, vediamo un po' che cosa succede. Tanto giù, cosa ti serve il 40? Ci va sul 5, sul 10, entriamo sempre lì. E poi un'altra cosa, basta che prendi il quarto di trasmissione e ricezione, togli un buone naso, come si faceva prima e via. No, non è così, Giorgia. Non è così, quelli quando sono accoppiati, quando sono installati in maniera accoppiata, ma questi sono sintetizzati e non è possibile, non è così, no. È solo una questione di frequenza di taglio, eccetera, eccetera. È frequenza da utilizzare, no, non è così. Va bene, sì, in certi apparati si può fare quello, ma bisogna che sia di un diverso sistema, capito? No, non è così. Va bene comunque, va bene lo stesso, non c'è niente. Ma era solo per fare qualcosina così, tanto per usare il saldatore, capito? Mi è venuta la voglia di accendere il saldatore, allora li farò scaldare un pochino. Tanto più ho consumato anche lo stagno, a proposito, adesso me lo devo ricomprare. E devo dire che è riuscita, insomma l'idea era buona ed è riuscita, no, avevo trovato un piccolo circuitino, leggendo, ci ho provato, l'ho fatto e va bene, ok, allora signore. Esatto. stavo cercando nella guida c'era un'associazione pure, c'ha un altro nome, quella che è in via Milano, quella delle, che tengono quei bambini disabili, o Giulio? Non posso dire, io non conosco, non so, e prova a vedere al computer se ce l'hai, dal computer magari è più facile, più facile da trovare certe cose. Non so, forse Gianni ne sa un po' più di me. Gianni? Ah, c'è scritto o è Gena oppure Opera Gesù Nazareno, cerca Opera Gesù Nazareno. Ma cos'è associazione, cos'è? Non è associazione, è una cosa che mi pare che sia statale, roba del genere. Comunque tu cerca Opera Gesù Nazareno nella guida o trufi. Opera Gesù Nazareno. Ho capito, sulla O, vediamo un po'. Però guarda le pagine gialle, ci sarà qualcosa lì. E così è già. Diciamo che mi sono voluto divertire un attimino, così. Ha fatto anche fretta, della verità ha fatto anche fretta. E beh, funziona, perlomeno. Stanno alle prove che ho fatto io qua, funziona. Poi non lo so, perché non ho avuto modo di sentire nessuno su quei canali, capito? Io invece mi sono divertito a fare una cosa. Sto facendo un allevamento di triops, che sono degli animali preistorici, che sono tuttora in vita. Mi sono fatto arrivare le uova, si sono schiuse e stanno ingrandendo, stanno diventando bellini, diventano fino a 10 cm, sono dei crostacei, sono tra il crostaceo e il pesce, c'era la coda, però il corpo con lo scudo, insomma, sono particolari come animali. Ho capito, insomma è un qualcosa che fa parte dell'acquario allora. Scappa, però vivono in un tipo di acqua diversa, l'acqua che dove devono vivere loro è praticamente un'acqua neutra, cioè l'acqua distillata, vivono in acqua distillata e campano lì nell'acqua distillata perché hanno bisogno di un pH neutro. Ho capito. E non è andata la fortuna quella distillata, dal frigorifero? No, ma compro un bidone a 5 litri e ti fa di a voglia. Ce n'è appena me ne metti, non è, è una vaschettina piccola dove ci sono questi triops. E poi si moltiplicano, capito? È tutto nato da un gioco che avevo preso a Marco per Natale. Praticamente questo gioco è della preistoria, ci sono praticamente degli alloggiamenti dove si piantano i semi delle piante con la terra e tutto quanto, e quelli li ho già fatti, sono tutte cresciute le piante. Poi più su ci sono le montagne da dove scende il vulcano e poi ci sono tutti gli animali preistorici e c'era scritto praticamente che se volevo potevo fare un allevamento di triops che erano degli animali preistorici che tuttora sono in vita, che vivono sino ai tempi della preistoria, e allora me li ho fatti arrivare sia le uova che il mangime. Tutto gratuito, chi compra questo gioco lo danno gratuito, e metà delle uova le ho messe a provare. Queste uova qua volevano messe in acqua praticamente distillata, dovevano stare a temperatura dai 26 ai 27 gradi e praticamente con la luce che li puntava sopra. Allora cosa ho pensato io, per non stare a sprecare, fare altri sprechi di luce, di coso, adesso questa vaschetta qua io la metto a bagnomaria nell'acquario che è 27 gradi, la luce io utilizzo quella dell'acquario e via dicendo. Vabbè, li ho lasciata giorno e notte accesa per farli schiudere, però almeno ho fatto una cosa unica. Ho capito. Vabbè, certo, non deve funzionare per mantenere quella temperatura, se no sì, infatti stavo per chiedere, ti vai come fa a mantenere la temperatura di 26-27 gradi? Beh, quando già è un sistema intelligente, visto considerato che l'acquario ha tutta l'apparecchiatura per mantenere quella temperatura, va bene, sicuramente dovrebbe funzionare. E meglio così, anche quello è un esperimento bello, perché no? Tutto il bello fare nella vita è imparare e cercare di andare avanti sempre. Giuseppe! Giuseppe De Drumito. Sta telefonando là con Gesù Nazareno. Forse ha trovato il numero, se sta telefonando, in effetti. E così è già, e vabbè, ad ogni modo. Spesso stamattina che è passata di grande e ha fatto una porca miseria. C'era solo una ragazza qui, c'era in questa zona. Da tutte le parti, io sono passato nella zona di Via Mendola, era tutto un lago, pur per non parlare di Piandanna, dove c'è la fontana, lì alle Conce, era tutto allagato. Lì più avanti c'erano delle portanghe altissime, fino a lungo fa un bel rivitare, ma fate lungo. Mi ha fatto un bel po', comunque. Oh, mi sono alzato anche un po' tardi, mi sono alzato che erano le 10, ti puoi immaginare. E poi è cominciato a piovere, a grandinare, ma già basta a vedere che adesso che questa grande mi è marcata anche la macchina. Come una volta si è fermata la volta in bottega mia, si è fermata una macchina, si è fermata. E la stavo guardando e tu vedi questa, tutta quanta martellata, no? A un certo momento, che arriva una donna, la fagiola, sembrava fatta tutta col martello già, invece era una macchina che era di Brescia, lì c'era nevicato, aveva nevato forte, grandine più rossa di nuovo, dice, come grandinato ha rovinato tutte le macchine, e questa è una di quelle, dice, caspita, a posto siamo, ti puoi immaginare se cade in testa alla gente ti ammazza. Un amico mi ha detto che in Germania, una volta lui lavorava in Germania, poi se ne è venuto qua a Sassari di nuovo, ha trovato un posto di lavoro come autista di pullman, e stava andando a ritirarsi della documentazione a prendersi le ultime cose che aveva a casa sua, in Germania, e si è portato un amico a fargli compagnia, no? Vabbè, dice che stavano ritornando e ha cominciato a grandinare, ma ha detto già, ti giuro, grandine quanto un cantone. Ho fatto in tempo andare sotto la galleria e mi sono salvato, a me me ne ha fatto due o tre di botte, ma c'erano certe macchine distrutte tutte ma botte grosse. Sembrava fatta apposta, martellata apposta, ma poi era talmente preciso, no? Tutte queste ammaccature erano talmente precise, mi sembrava una faccia stampo, perché giustamente come cadeva la grandine ha formato una cosa uniforme, cioè uno stampo uniforme ha fatto, soprattutto sulla cappotta e sul cofano davanti. Ma è la banda, tu dovevi vedere questa macchina, insomma, in poche parole, se uno poco non intuiva un qualcosina, dopo questa macchina è stata fatta apposta così, questa era una cosa perfetta, proprio uno stampo vero e proprio già, perché non era la fiata, era bella, la bella verniciatura era tutta bella, solo era tutta marcata così. Succede in questi paesi qua, perché in Germania abbonini la pelle di pecora nei sedili, tutte queste cose qua, perché c'è un freddo cane e fanno queste temperature gelide, formano queste grandi lastrici che sembrano cantoni, cioè quando cadono sulla macchina senti boom boom boom, è proprio forte. Sì, beh sì, certo, e non so, infatti c'era un fracasso, sai, di tutta la grande che cadeva qua sulle macchine che ci sono parcheggiate, c'era un fracasso. Scusa la tosse. Stavo dicendo, c'era un fracasso infernale, c'era proprio qua. Infatti appena uscito, mi sono affacciato, ho guardato dal vetro, così, dalla finestra, ha detto, ma che ordinario, poi c'era un fiume, c'era l'acqua che scendeva, no? Perché qua è un pochino che prende l'acqua che scende dalle altre frane, e dunque c'era formata una specie di fiumiciato, e tutto lì, tutta la grande che scorreva e scende all'acqua, una cosa, quando non sei sotto si... Certo, non cadono il tavolo, si vediano sopra. Dunque, non c'è da fare. Ui, ui. E vabbè, comunque. Speriamo che non succeda mai qua, perché quando io penso a tutto quello che succede in continente, caspita, con i diluvi e con tutto il maltempo che si fa lì, per carità, soprattutto quando nevica, 3-4 metri di neve, una cosa spaventosa, veramente, guarda, c'è da restare a casa per dormirsi, se dovesse nevicare qua, e chi va a spare neve qua la neve, se dovesse fare una nevicata così grande? Sono rientrato, Giuseppe? E l'ho trovato, e come hai detto tu già, opera quella cosa là, ho preso il numero di telefono, però c'è scritto fisioterapia, abilitazione, quella roba lì e tutto quanto, hai capito? Adesso domani li telefono e vediamo un po' cosa mi dicono. Allora, perché non ci passi in persona? Non lo sai dove? Io so, via... Dovrebbe essere dopo l'ippodromo, dovrebbe essere lì. Dopo l'ippodromo sulla destra, e c'è scritto opera Gesù Nazareno nella traversa. C'è scritto lì opera Gesù Nazareno. E nel coso del calcio mi pare che ci sia scritto, come si chiama, Jena. Adesso domani. Stasera tanto non ci sarà nessuno, per forza domani andrò assieme alla mia ex moglie a parlare e vedere un po' cosa dicono. Ma non so se è lì a pagamento forse, non lo so come sia, forse bisogna fare domanda. Va bene. Giulio! È ok Giuseppe. Vabbè, ti informi, se a pagamento come ci sarà la sanità che pagherà, non lo so. Bisogna informarsi, Giuseppe. Domani ci vai, domani è lunedì, dunque ci vai e ciccia, così ti informi e si stile la situazione di questo ragazzo. Va bene. Ok, mi prendi già. Giulio! Guarda se mi può fare un colpo di telefono di una cosa. Sì, adesso ti chiamo. Oh già, scusa un attimino che telefono a Giuseppe. Ehi, sono qua. C'era anche Gianluca in posto, poi non è più entrato. Gianluca. Dammi il tempo di accendere il telefono, Giuseppe. Sono Gianni. Avanti. Ciao Gianni, scusami se non sono entrato, che ho sentito nel 12 che stavano chiacchierando qua. Se non c'è nessun altro, senti va, siamo sul 12. Se no mi mandano un abbattimento, capito? E dai, mi sposo un attimino secondo Giulio ritorna, perché c'era Giulio, c'era Leoncino qua, era solo al telefono. Ok, allora saluto a tutti, dai. Sono lì perché se no se parlo qua non ti sento bene magari, capito? E io già passo, dai. Ciao, fra poco. C'è nessuno su canale 5? C'è nessuno canale 5? Giulio. Oi Giuseppe, già ci sei ancora? Sono qua. Ok, va bene. E Gianni è andato via? Oh, non lo so se si è addormentato, non lo so. Gianni, ci sei? Un po' di preparazione mi sembra che ci sta aprendo anche, nonostante la giornata pessima. Va bene, già va bene, non è un problema. Chiamiamo e se rispondono ci parliamo, siamo pazienza. Al 10 dovrebbe essere Gianni lì. 10, vediamo un po'. È dalla presa di corrente, capito? Va bene dai signori, io vi mollo. Pupille, hai capito? Faccio un piccolo riposino, dai, ci sentiamo più tardi, se concile, vi auguro a tutti quanti una buona serata e a più tardi, dai, ciao ciao. Buona serata. Sì, ciao, ciao Giuseppe, alla prossima, ciao. Avanti già, svegliati bene Gianni. Ho abbioccato un po' solo. Vabbè, se ti vuoi riposare fallo pure, non ci sono problemi. Casomai ci sentiamo più tardi. Così io adesso mi accendo la televisione e mi guardo la partita, magari una retrofelò. Non so se gioca la Juventus a quest'ora. Se c'è la Juve, a quest'ora guardo la Juve, se no guarderò un'altra squadra. Non sei uscito? Ecco, ti saluto, che sto andando un pochettino a riposarmi. Sentiamo più tardi magari. Ok, io intanto mi sto attaccando la presa, cioè la presa della televisione e l'antenna, così mi accendo la televisione e guardo la partita. Vabbè, ci sentiamo, ciao già, alla prossima, stasera più tardi.